trovare si è verificato il fatto di Ripens che, cominciato Giro d'Italia, con degli interventi che sotto la sigla del Partito Democratico invece portano avanti le nostre idee, esattamente le nostre idee. E questo ci fa piacere, perché se accadesse un miracolo, che cioè Renzi vincesse le primarie e fosse lui il leader del Partito Democratico, si verificherebbe da questo miracolo, che finalmente il Partito Comunista Italiano, che ha tante volte che cambiato nome, ma non ha mai cambiato modo e concezione, diventerebbe un partito sociale democratico, che è qualcosa che è avvenuto in Inghilterra, in Germania, tanti anni fa, e che purtroppo in Italia invece non è ancora avvenuto. Quindi tanti auguri a Matteo Renzi. Allora, facciamo le cose serie o facciamo le cose per finta? Uno, la politica deve dare il buon esempio. Dicevo, secondo me parla di Lei non vorrebbe governare questo paese, non vorrebbe fare il suo consiglio. Passando dalle elezioni, non passando dagli uffici di palazzo. Passando dalle elezioni. Mi devi stare che auguri a Matteo Renzi. Allora, facciamo le cose serie o facciamo le cose per finta? L'articolo 18 è una norma di una legge del 1970. Bene, bravi, bis. Adesso vogliamo parlare dell'Italia del 2020, del 2030. E questo che serve per un partito? Non difende le posizioni di 50 anni fa. Matteo Renzi si lascia, però con una bella sicurezza. Belli con i 2 milioni di questa sera va a 48 milioni e 400 mila.